Prego. Di nuovo Ave Maria a tutti gli ascoltatori e ben ritrovati sulle frequenze della web radio Radio San Giuseppe. Abbiamo una nuova puntata di questo ciclo di catechesi sul più santo dei santi. Come vi accennavo lunedì scorso, questa settimana cominciamo una serie di conversazioni, sicuramente ce ne vorranno un paio, forse di più, diciamo a carattere mistico, perché con mia sorpresa c'è nella storia del cristianesimo, diciamo così, insieme a un'ampia gamma di più conosciute apparizioni mariane, anche una serie, come cominceremo a vedere da oggi, di apparizioni giuseppine, cioè San Giuseppe a volte con la Madonna, come vedremo, a volte in apparizioni anche molto famose dove la Madonna è apparsa, e quindi con lei, e invece altre volte vedremo è apparso, diciamo, in maniera autonoma, da solo, e a volte, insomma, le testimonianze provengono anche qui da testimoni eccellenti, come abbiamo avuto già modo di vedere in qualche catechesi precedente, perché vedremo figure del calibro di San Giovanni della Croce, di Santa Teresa di Gesù o d'Avila, come preferite, del beato, non so se già santo, sicuramente beato Luigi Orione, e anche della venerabile consolata Betrone, l'apostola dell'atto di amore. Vedremo la presenza di San Giuseppe nell'apparizione di Fatima o in un'altra apparizione molto bella, purtroppo, dove ci ha messo, a mio avviso, la coda del demonio per impedire il riconoscimento, ma davvero molto significativa, che è quella di Ghiaie di Bonate, un'apparizione mariana penso sconosciuta a quasi tutti, ma molto importante, perché riguarda la vita e l'importanza della presenza della Madonna nella famiglia. È tutta dedicata alla Madonna Ghiaie di Bonate, apparsa come Maria Regina della famiglia, e penso che oggi più che mai sarebbe di straordinaria importanza comprendere e approfondire queste apparizioni. Comunque va bene, prendiamo atto di tante situazioni. Voi sapete, quando un'apparizione non è riconosciuta ma comunque non è condannata, si è liberi o meno di credervi, dandole almeno una fede umana, e comunque a titolo personale, fino a prova contraria, si può comunque dare credito ad un'apparizione anche se non è ufficialmente riconosciuta, ripeto, a meno che non sia, come dire, ufficialmente condannata dal Magistero della Chiesa. Attenzione ad avere presente queste cose, perché ogni tanto, e Antonio mi perdonerà se faccio questa precisazione, anche sul web o su Facebook oppure in giro, io a volte leggo delle espressioni o delle frasi non del tutto consone, insomma, no? Cioè, riterrei che prima di fare alcune affermazioni bisognerebbe essere un pochino competenti in materia, ecco, cioè definire una cosa falsa o inventato proveniente dal demonio, quando semplicemente non c'è stato nessun giudizio ufficiale di riconoscimento, o quando c'è stata qualche dichiarazione sparuta di qualche persona di chiesa anche, d'accordo, ma comunque non un intervento ufficiale, non si può fare, non è lecito e non è corretto farlo, no? Adesso un addetto ai lavori come il sottoscritto, e queste cose le ha studiate, legge una frase del genere, gli viene la compassione, dice: poveretto, questo non sa quello che dice, non sa quello che scrive, o poveretta, però lo legge magari un fedele comune, siccome che queste presentazioni vengono fatte con un linguaggio altisonante che sembra, insomma, che chi le abbia scritte sia dottore in teologia, a volte possono essere fuorvianti, sono delle grosse responsabilità, no? Io penso che non è il caso di fare battaglie o guerre contro queste cose se non ci sta una motivazione, insomma, se veramente il Magistero della Chiesa non abbia preso una posizione ferma, ma in quanto magistero, non qualche uomo di chiesa. Sono due cose differenti, cioè la posizione di un singolo uomo di chiesa o anche il parere di un segretario, di un dicastero, cose di questo genere, rispetto a una presa di posizione, ripeto, ufficiale. Quindi questo devo farlo necessariamente come premessa, perché anche se l'autore qui è molto corretto, quindi fa chiaro riferimento quando si tratta di un'apparizione non riconosciuta, però non dobbiamo farci prendere dall'atteggiamento apparizione non riconosciuta, quindi lasciamo perdere. No, perché a mio modestissimo avviso, dentro tutto dentro questo ganglio di fenomeni, c'entra un po' l'azione del nemico della nostra salvezza, è un grande mistero, ecco. Però questo opera sempre, certamente il suo potere non è illimitato perché è soggetto in ogni caso alla potenza di Dio, ecco. Però come questo lo constatiamo, no? Purtroppo noi dobbiamo credere che ci siano alcune, o forse molte, questo non lo possiamo stabilire, ma sicuramente alcune senz'altro, anime che si dannano. Non possiamo certamente attribuire il fatto della dannazione alla volontà di Dio. C'era la seconda lettura della messa di domenica, no? Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi e arrivino alla conoscenza della verità, però Dio permette che tutti gli uomini siano tentati. E la tentazione a volte comporta la precipitazione nella dannazione, quando si cade nel peccato e non c'è un atto di pentimento nemmeno in punto di morte. Non possiamo incolpare di questo il Padre Eterno, né possiamo, come dire, trincerarsi dietro la volontà salvifica universale di Dio. Dio vuole che tutti gli uomini sono salvi, quindi vanno tutti in paradiso. Non è vero. Questo non è vero. Così tu dici che l'apparizione è riconosciuta e quell'altra non è riconosciuta. Come mai quella non è riconosciuta? Se Dio avesse voluto farla riconoscere, poteva tranquillamente farla riconoscere. Ma ci sta realmente il libero arbitrio degli uomini coinvolto in queste cose, no? Quindi a volte, noi non comprendiamo il perché di tanti misteri, il demonio fa qualche affondo, fa qualche sortita e ci riesce. Ci riesce. Quindi, ripeto, se non c'è una posizione davvero ufficiale, ma io, guardate, ho fatto uno studio sulle apparizioni mariane riconosciute, a mia memoria, guardate, sono rarissimissimi i casi della storia della Chiesa dove c'è stata una presa di posizione chiara, che poi si esprime in due forme, no? Non consta la soprannaturalità, che non è proprio una condanna, ma significa allo stato attuale non ci sono elementi per affermarla. Oppure consta la non soprannaturalità, e questo è un giudizio grave, d'accordo? È forte, però di questi sono una minoranza assoluta, quindi la stragrande maggioranza dei fenomeni mistici, delle apparizioni, sono rimasti semplicemente non riconosciuti, quindi non c'è stata una presa di posizione né positiva né negativa, sono rimasti così. Ecco, questo mi perdoneranno gli ascoltatori e anche Antonio, ma mi sembrava una precisazione doverosa dal momento che questo capitolo si chiama L'apparizione di San Giuseppe. Un'ultima cosa, secondo me, sempre doverosa da dire, è la funzione delle apparizioni e quindi delle rivelazioni private nella Chiesa. Altro tema scottante e, a mio avviso, spesso affrontato con due opposti estremismi, che sono ambedue perniciosi e ambedue da bandire. Allora, c'è il massimalismo e il minimalismo. Allora, c'è chi dà un valore abnorme ed eccessivo alle apparizioni e alle rivelazioni private, quasi sostituendole alla rivelazione pubblica e ufficiale, che è comunque sempre il punto di riferimento primario, fondante, principale e insostituibile, d'accordo? Quindi non è che arriva un'apparizione privata e io mi dimentico della scrittura, della tradizione, del magistero e sto appresso all'apparizione e alla rivelazione privata. Uno. Secondo, c'è un atteggiamento estremo al contrario, che è il minimalismo. Dal momento che Dio ha già sufficientemente parlato Nella rivelazione pubblica, tra l'altro, questa posizione si fonda, ahimè, anche su alcune espressioni unilateralizzate di qualche santo e dottore, per esempio San Giovanni della Croce, che fa delle considerazioni in proposito, no? Cioè, siccome Dio ha già parlato a tutti, è inutile stare andare a cercare la rivelazione X, la rivelazione Y, la rivelazione Z, perché basta e avanza quello che Dio ha detto nella rivelazione pubblica. Questa posizione ha un fondamento in re, cioè dice qualcosa di vero, nel senso che la rivelazione pubblica, e questa è un'affermazione che noi dobbiamo assolutamente accettare, contiene in sé tutto quello che basta per avere la retta fede, i principi fondamentali in materia di morale e tutto quello che è necessario per salvarsi. Questo è indubbio, però non possiamo con questo concludere, perché se c'è un'apparizione o una rivelazione privata, supponiamo riconosciuta, cosa significa? Significa che Dio ha voluto questa cosa, e se Dio l'ha voluta, la ritiene necessaria, certamente non di necessità assoluta, come una rivelazione pubblica, di necessità relativa, certamente, ma comunque lui l'ha voluta. Quindi io non posso e non devo fare finta di niente, anche se, e concludiamo, la dottrina della Chiesa dice che dinanzi ad una apparizione o rivelazione riconosciuta, nessun fedele può metterne in dubbio l'autenticità, perché questo sarebbe troppo. Tuttavia, se vuole non prenderne atto e non agire di conseguenza, è libero di farlo, fermo restando la doverosa adesione alla rivelazione pubblica. Ecco, allora, e come mai, e concludiamo, Dio fa queste o permette queste apparizioni o rivelazioni private? Sono due le motivazioni che stanno alla base di ciò. Uno è una motivazione, come dire, storica, potremmo chiamarla così, cioè in determinati momenti della storia Dio ha a cuore che si consideri qualche aspetto particolare della rivelazione pubblica. Facciamo subito un esempio: le rivelazioni a Santa Margherita Maria la Cocca nel 1660 circa il Sacro Cuore. Il Sacro Cuore, che certamente per certi aspetti è, come disse qualche papa, la summa della dottrina teologica sulla redenzione, però è un aspetto un po' particolare che dà luogo ad un approccio particolare al mistero di Nostro Signore Gesù Cristo ed anche ad una forma di devozione particolare, quella riparatrice, nei confronti del suo cuore pieno d'amore. Ecco, il fatto che questo sia avvenuto nel 1600 e non nel 1500 e non nel 1900, c'è un motivo, cioè se uno conosce la storia della Chiesa lo capisce. Ecco, per esempio, no? Quindi in quel periodo Dio voleva che fosse accentuata questa dimensione. Il fatto che le grandi apparizioni mariane che ci sono sporadicamente qua e là si siano accentuate negli ultimi due secoli non può essere casuale, c'è un motivo. Quindi ci sono dei motivi legati alla storia, cioè in qualche momento storico Dio vuole che alcuni aspetti della rivelazione siano presi in seria considerazione. Per esempio il grande innalzamento e la grande glorificazione della Madonna, Dio ha voluto che ci fosse in questi ultimi tempi, prima non c'era. Ci sono state delle grandi apparizioni anche molto antiche, pensiamo a Guadalupe, no? Che venne nel 1500 circa, ecco. Però erano molto sporadiche. Oh, se uno va a contare negli ultimi 200 anni e le considera tutte le apparizioni mariane, non si contano più, sono state veramente un incalzare impressionante, e di queste pochissime sono riconosciute. L'altro motivo non è storico, a volte, quindi è metastorico, cioè è legato ad una contingenza storica, però va oltre, cioè attraverso una rivelazione privata Dio vuole far comprendere meglio un aspetto non del tutto esplicitato nella rivelazione pubblica. Faccio subito un esempio, no? Poco prima che Pio XII facesse il dogma dell'Assunta, la Madonna apparve, io abito a Latina, quindi non molto lontano dalle mie parti, qui vicino a Roma, sulla Laurentina, ad un protestante, grande peccatore tra l'altro, dicendo: il mio corpo non poteva marcire e non marcì. Quindi prima che fosse fatto dogma di fede l'Assunta, E sapete che il dogma di fede dell'assunta come quello dell'Immacolata Concezione voi non trovate nella Bibbia che la Madonna è stata assunta in cielo, che è Immacolata Concezione. Questo che bisogna stare molto attenti anche agli approcci parziali e unilaterali con la Bibbia. Nella Bibbia ci sono queste verità di fede, ma sono contenute sotto immagini simboliche, sotto veli che devono essere alzati, scoperti e tra l'altro lettamente interpretati. D'accordo? Qualcuno, non so quanto sia fondata questa notizia, però potrebbe non essere, dice che quando Pio XII, che poi conobbe questo Bruno Cornacchiola, che tra l'altro voleva ammazzarlo, perché aveva lui così si concepiva un chiamato da Padre Eterno per uccidere l'impostore della Chiesa Cattolica, che era il Papa, questo pensava prima della conversione, e poi lui lo conobbe Pio XII e gli raccontò tutte quante le apparizioni, no? Qualcuno dice che Pio XII aveva già intenzione di fare questo dogma, ma che diciamo il colpo di grazia gliel'ha dato la conoscenza di queste cose, cioè a livello chiaramente personale. Poi quando ha fatto la bolla Munificentissimus Deus, certamente non ha detto che la Madonna è stata assunta in cielo perché gliel'ha detta Bruno Cornacchiola, ha spiegato i motivi teologici e i fondamenti biblici che stanno alla base di questo dogma, però non chiaramente contenuto nella Sacra Scrittura, no? Allora, in questo senso una rivelazione privata può aiutare noi a cogliere meglio un aspetto non troppo chiarificato, certamente già contenuto nella rivelazione pubblica. Quindi capite che la rivelazione privata non si può dire che completa la rivelazione pubblica, che è già completa in se stessa, però può aiutare a capirla meglio. Quindi che succede? Che se tu prendi la posizione minimalista ti chiudi ad una possibilità che Dio ti dà, e se te la dà accoglila senza paura, senza estremismi al positivo, ma neanche senza estremismi al negativo. In questo senso vedremo che le apparizioni di San Giuseppe non fanno altro che confermare la sua eccellenza e anche la sua potenza, la sua efficacia di intercessione, e quindi anche, cioè, diciamo, il peso specifico, l'importanza che c'ha dinanzi a Dio, come dire, il peso della sua santità e della sua autorità. Vedremo a un certo punto che una persona aveva chiesto una grazia, Gesù gli aveva detto no, e San Giuseppe gli è apparso: tu ti preoccupa, glielo dico io a Gesù, Gesù fa quello che dico io, e vedremo che lo fa, che è successo. Quindi tutti i bei discorsi che abbiamo fatto nelle puntate precedenti, l'eccellenza di San Giuseppe vicino a quella della Madonna, ed è da concepire soprattutto in relazione alla sua vera paternità nei confronti di Gesù. Se è vero che i santi dicono che la Madonna è l'onnipotente per grazia, cioè che in un certo senso, si azzarda a dire San Luigi Montfort, quasi comanda il figlio gli obbedisce, non chiaramente in senso stretto, poi lo spiega, no? Dice: l'amore che Gesù ha nei confronti della Madonna è talmente grande che lui concepisce i suoi desideri come ordini. Certamente è lui che li concepisce in questo modo, no? Perché non è che il creatore può essere in senso stretto comandato da una creatura, però questo va a capire l'ascendente grande che la Madonna ha su Gesù, e noi dobbiamo comprendere però anche l'ascendente non piccolo che ha San Giuseppe nei confronti di Gesù, e questo lo capiamo anche, cioè, nelle puntate precedenti l'abbiamo cercato di, chiaramente seguendo il testo, non ci siamo inventati nulla, di, come dire, fondare teologicamente. Qui abbiamo delle conferme mistiche, cioè queste sono conferme che dà il Padre Eterno e attraverso queste vie. Perdonatemi questa lunga parentesi introduttoria, ma secondo me era necessario, insomma, no? Anche per non creare in generale equivoci negli ascoltatori attuali o futuri. A questo punto cominciamo a descrivere queste apparizioni, no? Tenete presente che adesso qui il tono della catechesi sarà un pochino discorsivo, perché queste sono fondamentalmente da raccontare. Eventualmente io poi, se necessario, mi permetterò di fare qualche piccola glossa, ecco, qualche piccola postilla o qualche piccolo commento a qualche singolo episodio. Quindi cominciamo. Il 7 giugno del 1660 un pastore, Gaspar Ricard d'Estienne, perdonatemi pronunce non del tutto perfette, il francese non è la mia lingua, si rifugiò con i suoi animali all'ombra degli alberi del colle di Bessillon, nella provincia di Varra, municipio di Cotignac, in Francia. Era assetato poiché faceva molto caldo. A un tratto, un uomo dall'aspetto imponente sorse davanti a lui e, indicando un masso, gli disse: «Io sono Giuseppe. Alza quel masso e berrai». «Non ce la farò, è troppo pesante», risponde quest'uomo, questo pastore. «Ce la farai», riprende Giuseppe. Allora il pastore si avvicina con grande sorpresa muove il masso al primo tentativo, ed una sorgente di acqua zampillante incomincia a sgorgare in quel posto. Gaspar corre e beve con avidità. Quando si rialza, l'uomo è scomparso. Il pastore corre ad annunciare la novità in paese, dove nessuno gli crede. Tuttavia alcune persone decidono di seguirlo per vedere la presunta fonte. All'arrivo tutti si mettono a gridare di gioia perché l'acqua scorre in abbondanza da 3 ore e perché la roccia che Gaspar aveva mosso tanto facilmente non si muove se non la spingono almeno 8 uomini insieme. Allora Gaspar prende coscienza che la forza gli venne donata dal cielo ed esclama: «Quello che era lì era San Giuseppe, lui mi ha dato la forza». Tutti si inginocchiano e ringraziano San Giuseppe. Successivamente, le guarigioni ottenute con l'applicazione di quell'acqua miracolosa attirano le folle verso il colle di Bessillon. Il culto a San Giuseppe, fino ad allora inesistente nella zona, conosce un'espansione straordinaria, diffondendosi rapidamente in tutta la Provenza. Quindi, con le donazioni ricevute e con l'approvazione del vescovo di Fréjus, viene costruita una cappella. Il re di Francia, allora era Luigi XIV, il famoso Re Sole, decretò che a partire da quel momento la festa di San Giuseppe fosse giorno festivo in tutta la Francia. L'anno seguente, il 19 marzo 1661, il re consacrò il regno di Francia a San Giuseppe. Questo è il primo episodio riportato dal testo che stiamo seguendo, un episodio molto semplice, ci fa vedere da un lato, come dire, una misericordia. A me ricorda un po', questo è un episodio che è un po' un misto tra le nozze di Cana e le apparizioni di Lourdes. Cioè, da un lato San Giuseppe appare nella sua veste misericordiosa verso un povero uomo, un lavoratore come lui, un pastore che soffre il bisogno molto umano di una sete profonda dinanzi a situazioni climatiche estreme, faceva molto caldo. Si scomoda San Giuseppe dal cielo per andare ad aiutare un po' l'uomo che stava lavorando. Però dall'altro aspetto c'è la dimensione un po' mistico-miracolosa dell'acqua, come quella di Lourdes, che diventa poi acqua realmente miracolosa, come sappiamo essere l'acqua delle fontane di Lourdes. No? Non è un caso che Gesù scelga l'acqua per operare questi prodigi, no? Perché sappiamo tutti quanti che l'acqua è l'elemento che il Signore ha scelto per come materia del sacramento del battesimo, ed è molto significativo, no? Perché l'acqua da un lato purifica, noi con l'acqua ci laviamo, e l'acqua però è anche la vita, perché noi l'acqua la beviamo e senza acqua moriamo. Si muore prima senza acqua che senza pane, perché si muore prima disidratati che di fame, qualora manchino entrambe queste cose, no? E attraverso questo intervento, vedete le motivazioni soprannaturali che giustificano queste cose, che succede? Si diffonde il culto di San Giuseppe. San Giuseppe, vedete, nella Sacra Scrittura, San Giuseppe chi è? Hai visto quanta fatica abbiamo fatto? Dalla Sacra Scrittura di San Giuseppe sappiamo quasi nulla. San Giuseppe è il padre putativo di Gesù, che non dice una parola, non voglio ripetere catechesi già fatte, compie semplicemente dei gesti, apparentemente, se uno non ci fa caso, non ci fa attenzione, innocui, se uno non fa una buona meditazione sui testi biblici, e poi, finito il discorso, non sappiamo neanche che ha fatto, che non ha fatto, quando è morto, dove sta, non si sa più niente, capite? Quindi come faccio a comprendere la grandezza di San Giuseppe se non sono in grado di fare tutta una serie di cose? Facilissimo, il Padre Eterno lo fa scendere e lo rende strumento di un miracolo portentoso, che addirittura poi culmina addirittura con questi due gesti molto eclatanti, insomma, di Re Luigi XIV, quindi non certamente l'ultimo dei monarchi della Terra, no? Uno dei re in assoluto più potenti e più conosciuti nel corso di tutta la storia. Festa di San Giuseppe di precetto in tutta la Francia, quando ancora i re avevano il potere di fare queste cose, anche per motivazioni religiose, e addirittura consacrazione del Regno di Francia a San Giuseppe. Mi sembra abbastanza, no? Questo è il primo episodio. Vediamo il secondo, questa volta ci spostiamo dalla Francia all'Irlanda, 2 secoli più in là. Il 21 agosto del 1879 apparve la Vergine Maria nel paesino irlandese di Knock. Alla sua destra c'era San Giuseppe e alla sua sinistra San Giovanni Evangelista. Questa è un'apparizione molto sobria, eh? Queste apparizioni vennero approvate dalla Chiesa e il santuario di Knock è attualmente il santuario mariano nazionale dell'Irlanda. Basta, non racconta altro il nostro autore di questa apparizione, che però è significativa semplicemente perché in base ad essa è stato costruito questo santuario, appunto il santuario mariano nazionale attualmente dell'Irlanda, ed è significativo che alla destra della Madonna c'è San Giuseppe e alla sinistra c'è San Giovanni Evangelista. Ecco, molto molto molto molto bella e molto significativa, no? San Giuseppe alla destra perché è il primo dopo la Madonna, San Giovanni Evangelista alla sinistra perché San Giovanni Evangelista è un po' la figura di tutti quanti i figli adottivi. Capite in che senso, no? Della Sacra Famiglia. Lì c'è stato un figlio vero, tra l'altro vero non è neanche un termine adatto perché siamo figli veri anche noi, c'è stato un figlio, come dire, naturale e per la Madonna anche biologico, d'accordo? Ecco, che è l'unigenito figlio del Padre, che è Gesù Cristo. Ecco, però sappiamo tutti quanti che la maternità di Maria, tra l'altro adesso anche ufficialmente riconosciuta nelle litanie, non è limitata alla persona fisica di Gesù, ma è estesa a tutti i discepoli di Gesù, episodio che si comprende tra l'altro anche nelle sue fondamenta teologiche pensando al capitolo 19 di San Giovanni, quando dalla croce Gesù disse: donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre, e c'era San Giovanni Evangelista. Ecco, però fatto che sia apparsa la Madonna con San Giuseppe da una parte e San Giovanni dall'altra è quasi a voler far comprendere che, certo, io sono madre vera, anche se adottiva, noi non siamo figli naturali della Madonna, questo lo capiamo, no? Di tutta l'umanità, quindi attenzione che anche San Giuseppe è padre adottivo di tutta l'umanità, quindi se ricorrete a me come dovete fare, come vera madre, sappiate che in San Giuseppe potete trovare un vero padre, almeno questa è l'impressione che io traggo da queste apparizioni, no? E noi dobbiamo fare sempre attenzione con un'apparizione, questo nel libretto delle apparizioni mariane, non voglio fare pubblicità, comunque scritto dal sottoscritto lo faccio sempre notare, cioè quando c'è un'apparizione noi non dobbiamo fermarci semplicemente alle parole dei messaggi, perché c'è anche un messaggio non detto, quindi che dipende dal luogo in cui la Madonna è apparsa, da come è vestita, dall'atteggiamento che ha, se piange, se non piange, se sorride, se non sorride, se guarda il cielo, se c'è il rosario in mano, se c'ha le rose sui piedi, come a Lourdes, no? Pensate al discorso della medaglia miracolosa, lì lo vedremo anche qui con San Giuseppe. Il retro della medaglia miracolosa è un capolavoro. Io l'ho messo nei restauri della chiesetta che ho fatto dappertutto, perché quella M sormontata dalla croce con i due cuori e le 12 stelle è un trattato vivente di teologia. Quindi, se uno capisce bene quel simbolo, ha capito tutto. E la Madonna se l'ha inventato. Quello è altro che i monogrammi. Quello è il simbolo della Madonna per eccellenza, perché l'ha dato lei. Il resto ce li siamo inventati noi, no? Il JHS, il Chi con Ro che rappresenta Gesù Cristo, anche il monogramma mariano, no? La M con la A, tutte cose belle che ce le siamo inventati noi per, come dire, per avere dei simboli che ci rimandino immediatamente, oppure il pesce delle catacombe, no? Anche quello inventato dagli uomini, ma ce n'è uno che è venuto dal cielo ed è il retro della medaglia miracolosa. Quindi questo per dire che le apparizioni, questa è un'apparizione dove l'autore non ci dice niente, la Madonna non si sa che ha detto, San Giuseppe non si sa che ha detto, forse hanno parlato, io non conosco questa apparizione, non la so, non l'ho approfondita, mi limito a seguire il testo, ecco, però già il fatto che appare la Madonna con San Giuseppe a destra e San Giovanni a sinistra, già questo parla e a mio avviso comunica quel messaggio che poc'anzi vi ho illustrato. Ora passiamo ad un'apparizione, andiamo ancora avanti nel corso della storia, famosissima, che è quella di Fatima. Ora, nella penultima apparizione, la Madonna, quindi 13 settembre 1917, disse, oltre che di continuare a pregare il rosario per la fine della guerra, che nell'ultima apparizione, cioè in ottobre, sarebbe venuto con lei anche Nostro Signore, la Madonna del Carmelo, quindi nell'ultima apparizione la Madonna sarebbe apparsa come Madonna del Carmelo, particolare molto importante, perché io ci sono stato quest'estate con un gruppo di persone e c'è un'apparizione anche qui, non riconosciuta ufficialmente dalla Chiesa, ma di un'importanza a mio avviso straordinaria ed eccezionale, che sono l'apparizione di Garabandalla dal 1961 al 1965. Garabandalla è un paesino tuttora adesso conservatosi di 80 case nella diocesi di Santander, apparizione a cui non dà peso e non fa caso quasi nessuno, ma che ha un'importanza, ripeto, secondo me assolutamente straordinaria, e lì la Madonna è apparsa come Nostra Signora del Monte Carmelo. E durante le apparizioni ha fatto riferimento al nesso stretto che c'erano tra queste apparizioni e l'apparizione di Fatima. Nesso che, se uno conosce e studia bene anche le apparizioni di Garabandalla, si capisce molto chiaramente. Quindi noi dobbiamo fare sempre molta attenzione, ascoltatori carissimi, allora, io dico sempre, dobbiamo fare attenzione, ragazzi, perché purtroppo le opere di Dio sono opere grandi, sono soltanto che noi non capiamo niente, non capiamo niente o quasi niente, o a volte semplicemente non ci facciamo caso. Ecco. Sempre sull'apparizione, il 19 settembre, qualche giorno fa, è stata l'apparizione della Madonna della Saletta, questa riconosciuta dalla Chiesa come Fatima, Però provate ad andare a chiedere in giro a qualcuno se conosce che cosa sono le apparizioni della Salette, come è apparsa la Madonna, cosa ha detto. Provate a fare un sondaggio tra i fedeli e vedete che tipo di risposte vengono. No? A un certo punto la Madonna parla di una serie di cose successe, per esempio che, dato che gli uomini, anziché santificare il giorno del Signore, non andavano a messa, andavano a lavorare di domenica, i raccolti erano tutti quanti marciti. Dice: guardate, i raccolti sono marciti, se voi avete fatto questo, i raccolti sono marciti, ma voi non ci avete fatto caso. Quindi è un rimprovero indiretto alla mancanza di intelligenza degli uomini. Cioè, dico, succede questo fatto, succede quest'altro fatto, sei tu che devi meditare e devi capire il nesso di causalità che c'è tra l'uno e l'altro, perché quello era un messaggio divino. Quindi noi dobbiamo imparare ad avere questo spirito dialogico e contemplativo per recepire anche nei fatti della nostra vita, o nei fatti della storia, nei fatti della storia degli uomini, nei fatti della storia della Chiesa, cosa ci sta dicendo il Padre Eterno. Almeno provarci, non sempre è facile, anzi è tutt'altro che facile, a volte è molto difficile, però possiamo e dobbiamo, a mio modestissimo avviso, provarci. Ecco, quindi dobbiamo chiedere veramente al Signore che ci dia questo spirito contemplativo, perché la contemplazione è quella capacità di fissare, di notare piccoli particolari. Quindi, come fai a capire il nesso tra Fatima e Garabandal? Dal fatto che nell'ultima apparizione, il 13 ottobre, la Madonna appare vestita come Madonna del Carmelo. E tra le grandi apparizioni del XX secolo, l'altra grande apparizione, anche se non riconosciuta, ma comunque dalle proporzioni è durata 4 anni, a volte ci sono state apparizioni giornaliere durate 8-9 ore di seguito, d'accordo, a queste ragazzine spagnole, anche lì era vestita come Madonna del Carmelo. Quindi attraverso questo particolare la Madonna ti dice: fai funzionare il cervello e cerca di cogliere il nesso tra l'uno e l'altro episodio. Dio opera così, genettissimi ascoltatori, cioè ci tratta da figli suoi. Da figli suoi significa da persone intelligenti, quindi ci ha dato un'intelligenza. Dice San Tommaso d'Aquino che il motivo per cui Dio ci ha dato un'intelligenza non è principalmente che ce la sforziamo per le cose di questo mondo, per carità, comunque importanti per il progresso umano. Noi stiamo parlando su una web radio perché c'è stato un grande progresso, no? Altrimenti non esisterebbe una web radio, quindi nessuno sta dicendo che non si devono fare queste cose. Però la motivazione principale per cui Dio ci ha dato l'intelletto è per conoscere e comprendere le cose divine, è per acquisire e imparare il dono della sapienza. Ora, quanti uomini, prima che occupare e sforzare l'intelletto nelle pur necessarie e doverose cose di questo mondo, lo fissano nelle cose di Dio e cercano piano piano di comprendere le cose di Dio senza presunzioni e senza superbi. Dobbiamo avere sempre una grandissima umiltà perché metterci dinanzi a queste cose come dei poveri bambini che non capiscono niente e che non sanno niente. Quindi, ecco, senza pretendere di andare a capire subito con estrema faciloneria. Le insondabili opere dell'Altissimo. Comunque, vediamo un attimo che è successo questo 13 ottobre del 17, riprendendo, no? Allora, anzitutto fu il giorno del miracolo del sole a Fatima. 100.000 persone videro questo episodio, fino a 50 km di distanza, quindi che fu l'attestato, diciamo così, soprannaturale dell'autenticità delle apparizioni. Non è un caso anche qui che il sole abbia ballato. Noi sappiamo dai padri della Chiesa che il sole nella Sacra Scrittura è simbolo di nostro Signore Gesù Cristo, no? Ricordate anche che chi dice la liturgia delle ore ogni mattina recitiamo il Benedictus, no? Per la grande misericordia del nostro Dio verrà a visitarci un sole che nasce dall'alto. Chi è questo sole? Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre, nell'ombra della morte e dirigere i nostri passi sulla via della pace, il nostro Signore Gesù Cristo. Quindi questo sole che si muove, certamente il sole che tra virgolette balla, è un fenomeno cosmico straordinario, no? Però, come dire, queste apparizioni di Fatima sono finalizzate, questo è l'ultimo atto, all'affermazione assoluta del primato e del trionfo di Cristo, perché il trionfo del cuore immacolato di Maria promesso a Fatima non sarà altro che il trionfo e il nuovo innalzamento della bandiera regale di Gesù Cristo su tutta la terra e su tutti gli uomini. Questo, a mio avviso, non ci piove assolutamente, perché la Madonna è tutta per Gesù, oltre che essere tutta di Gesù. Ecco, quindi, che succede? Che mentre si elevava, quindi la Madonna apre le mani e comincia ad elevarsi, e il riflesso della sua luce a proiettarsi nel sole, una volta che Nostra Signora nell'immensa di fu scomparve nell'immensa distanza del firmamento, vedemmo di fianco al sole, vedete, San Giuseppe col bambino e Nostra Signora. Particolare davvero grande, no? Benedire il mondo, scusate, vestita di bianco la Signora con un manto azzurro. Attenzione, vestita di bianco e con un manto azzurro, particolare significativo, no? I colori bianchi e azzurri rimandano un pochino a Lourdes, quindi sembra la Madonna quasi voler farci comprendere la linea, diciamo così, di continuità che ha caratterizzato le apparizioni Marianne degli ultimi 2 secoli. Il bianco con l'azzurro ci rimanda anche alla prima, a mio avviso, grande apparizione del mondo contemporaneo, che fu Rue de Bac. Capite? Quindi si possono leggere questi messaggi impliciti, no? San Giuseppe e il bambino sembravano benedire il mondo con dei gesti che facevano con la mano in forma di croce. Poco dopo, finita questa apparizione, e vedemmo il Signore e Nostra Signora che mi dava l'idea di essere Nostra Signora dei Dolori, la Madonna addolorata. E Nostro Signore sembrava benedire il mondo allo stesso modo di San Giuseppe. Svanì questa visione e mi pareva di vedere ancora Nostra Signora in forma e somiglianza a Nostra Signora del Carmelo. Quindi attenzione a quest'ultima apparizione, la Madonna è apparsa anche come Madonna addolorata. Quindi a far comprendere che dopo Fatima, ahimè, come la storia ci ha dimostrato, si sarebbe aperto un periodo storico difficile, caratterizzato da grandi dolori per l'umanità e quindi di riflesso grandi sofferenze per la madre di tutti noi, che non è indifferente ai nostri dolori, no? San Giuseppe, vedete, ancora qui vicino al sole, e San Giuseppe, qui a me piace, non mi ricordo se ho fatto riferimento la volta scorsa a questo, però vederci qualcosa di simile, che benedice insieme al bambino. Ecco. Io ho accennato la volta scorsa che a mio modestissimo avviso proprio la figura di San Giuseppe fa pensare simbolicamente alla gerarchia cattolica, quindi a coloro che sono insigniti dal sacerdozio ministeriale. Per coloro che sono insigniti dal sacerdozio ministeriale hanno autorità come San Giuseppe su Gesù Cristo, perché amministrano i sacramenti, in primis l'Eucaristia, dove Gesù è proprio veramente presente, e poi tutti gli altri, in cui è presente la sua grazia, e hanno autorità sulla Chiesa, di cui la Madonna è modello e tipo. Quindi il fatto che Giuseppe compia un gesto sacerdotale, perché benedire è un gesto eminentemente sacerdotale, anche se è possibile, adesso non facciamo qui i fiscali eccessivi, no? Altre cose che mi è capitato di vedere in giro online, cioè un padre che benedice un figlio lo può e lo deve fare, che nella Sacra Scrittura sono ampiamente attestate queste cose. Pensate alla benedizione di Isacco su Giacobbe, che tra l'altro lui gliel'ha anche carpita con l'inganno, e tutta l'importanza veterotestamentaria che aveva la benedizione di un padre su un figlio. Un padre dentro la famiglia, mi passate questa espressione, è una specie di piccolo prete, insomma, no? La benedizione di un padre su un figlio è potentissima. E al contrario, leggete i libri di Padre Amort se non ci credete, la maledizione di un padre su un figlio o su una figlia è devastante, può essere causa di possessione diabolica. Quindi non scherziamo con queste cose, no? Quindi certamente la benedizione, quindi certamente un padre ha una grande autorità su un figlio. Certamente se un padre di famiglia benedice, non lo so, il suocero, certamente quella benedizione non ha né la forza, né l'efficacia, né la qualità soggettiva che c'ha quella di un prete. In ogni caso non è proibito che un laico dica che Dio ti benedica o che voglia comunque pronunciare una benedizione su un'altra persona, purché sia chiaro il distinguo e la non confusione, diciamo così, dei ruoli, no? Sempre bene non esagerare e non unilateralizzare. Quindi in quest'ultima visione, io penso che è il caso che ci fermiamo oggi, perché altrimenti poi sforiamo eccessivamente con i tempi, rinotiamo quindi al termine dell'apparizione di Fatima questa forte vicinanza di San Giuseppe al figlio, San Giuseppe che appare vicino al sole, d'accordo? E con in braccio il bambino, quindi a ricordarci come la tenera e vera paternità che egli ha e a ricordarci forse, questa è una mia lettura personale, il suo ruolo simbolico in relazione al ministero ordinato nella Chiesa, espresso dal suo gesto di benedire. Ecco, io anche per oggi penso che mi fermerei qui e cedo la parola ad Antonio se vuole concludere Dai questa pure la nuova puntata. benedizione e poi concludiamo insieme. Come? Dai pure la benedizione così poi concludiamo insieme. Per intercessione di Maria Immacolata e di San Giuseppe, il più santo tra i santi, trova Maria Santissima, su tutti gli ascoltatori, sui loro oggetti e sulle loro famiglie, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Ecco, grazie Don Leonardo, veramente bella questa catechesi, insomma quando si parla poi dell'apparizione di Fatima, e anche di altre apparizioni si ripercorre sempre volentieri, no? Come dicevi tu, non solo i fatti ma anche gli insegnamenti che arrivano. Ecco, mi è piaciuto molto questa riflessione che hai fatto ultima, no, di San Giuseppe che appare col bambino e che benedice, no? Intanto richiamava la paternità di San Giuseppe e quindi il ruolo anche dei genitori, no? Come dicevi. E poi insomma questa cosa che non avevo considerato, cioè del fatto che i sacerdoti benedicono, lo puoi ripetere, quindi anche San Giuseppe, pur non essendo sacerdote, ha avuto questo potere di benedire, è molto bella questa cosa. Eh sì,